condominio di Olgettine. Parenzo è il primo ad avere questa ambizione, lo sappiamo che è così. Noi che non siamo religiosi lo diciamo apertamente, lui essendo religioso non lo dice ma lo pensa come noi. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Lei svolge una funzione sociale e lei sostanzialmente non ha fatto altro che aggrapparsi al decadimento culturale di questi ultimi anni dell'Italia, né più né meno. Attenta Cruciani, lei non mi è molto simpatico, però seguo la zanzara dalle 6 del mattino a mezzanotte alla sera. Ringatto che ormai è tutto finito. Capo del mondo, cioè Papa Francesco, beh amici miei, ha detto sostanzialmente che il sindaco di Roma, lui è il vescovo di Roma, Papa Francesco, il sindaco è un imbucato, uno che è andato a Filadelfia dicendo che più o meno era stato il Vaticano a invitarlo, a dire che avrebbe fatto piacere ai signori del Vaticano se lui fosse andato a Filadelfia. Ebbene, il Papa si è scomodato con tutti i problemi che ha il Papa, diciamo la verità, no? Il Papa ha un sacco di cazzi. Ma immagino, parla con i grandi un sacco di problemi. Di problemi, sì, di però cazzi l'ha detto anche lui una volta, anche una il Papa volta, ha detto una volta cazzi. Sdoganato. Comunque ha un sacco di cazzi, detto nel linguaggio nostro, ogni giorno deve avere a che fare con rotture di balle, prelati, vescovi, postulanti, pedofili, eccetera, eccetera. Beh, anche pedofili. Sì, l'ha detto pure, no? Che sono stati un grande problema della Chiesa. Peraltro, qualsiasi cosa di buono possa fare questo Papa, ed è tutto da dimostrare, questa è una mia teoria, non sarà mai abbastanza per emendare tutte le disgrazie della Chiesa cattolica, tutte le vergogne. Questa è la mia teoria. È un po' forte, però è il mio pensiero. Qualsiasi cosa di buono possa fare questo Papa, non sarà mai sufficiente per sanare tutti i danni che ha fatto il Vaticano alla Chiesa cattolica in Italia e nel mondo. Soprattutto la pedofilia, diciamola tutta. Non è che adesso i pedofili dentro la Chiesa finiscono perché lo dice il Papa, eh? Se uno è pedofilo. Ha aumentato i controlli, ha fatto insomma. Sì, forse aumenteranno le denunce, forse i vescovi saranno un po' più attenti. Anche se mi dicono che ad Albenga e dintorni albergano un sacco di pedofili, di preti ancora lì, che ancora pastrucchiano. E comunque non sono stati puniti, non sono stati ancora puniti ad Albenga, nella diocesi di Albenga. Cazzo, allora cominci ad agire subito sulla diocesi di Albenga. Vabbè, questo abbiamo divagato. Il vescovo di Roma sfratta l'inquilino del Campidoglio. Perché diciamo la verità, ragazzi, quando il Papa ti dice che ti sei imbucato a Filadelfia, un sindaco normale che dovrebbe fare? Amico mio, cioè si è scomodato per dire che Marino a Filadelfia non ce l'ha invitato nessuno, né lui né gli organizzatori. Io non ho invitato il sindaco Marino, chiaro? Io non ho fatto e ho chiesto agli organizzatori, neppure loro lo hanno invitato. Lui è venuto, lui si professa cattolico, è venuto spontaneamente. Era questo, primo, ma è chiaro, Cioè, ci ha tenuto proprio a ribadirlo. Ma questo è Mercù, dai. Questo no, è Mercù. Ma non è Andro. È il Papa vero. Allora, però ti rendi conto, laddove non è riuscito Renzi, laddove non è riuscito questa è buona, Casamonica, questa potrebbe essere laddove buona. Non è riuscito. Potrebbe riuscire il Papa, sì. Ecco, questo è il punto. Non c'è riuscito Renzi. Non ci sono riusciti i signori Casamonica, con le loro carrozze meravigliose, con i loro cavalli, con i loro petali, a strattare Marino, con i loro elicotteri. Bellissimi. Non ci sono riusciti. Ci riesce il Papa. No, si riesce, quello no, è tutto da peraltro, vedere. No, peraltro, alla vigilia del giubileo, peraltro. A pochi mesi dal giubileo gli ha dato una stilettata pazzesca. Chiaro? Chiaro, non l'ho invitato io, chiaro. Poi ha detto anche, lui si professa cattolico. Sì, come bellissima. Dire, non ci credo molto. Beh, non ci credo molto. Mamma mia, come combatte. Amici oltretevere. Miei. Devo dire che mi sta un po' sulle palle questo papa che si intromette dei cazzi no, nostri. Perché? Si intromette un po' dei cazzi nostri. Qualcuno, ma no, ma scusa, qualcuno gli ha chiesto, ci è venuto con lei, Marino l'ha invitato. Bene, no, bene, bene, in questo io caso non l'ho invitato. Sì, ma c'ha ragione. Ha perso tempo nel dire questa cosa e anche a specificare con quel sorrisino tutto sardonico, sì, quel sorrisino beffardo, no? Ma ha fatto bene, scusa, è un imbucato, una festa dopo. Peraltro, come ha ribadito, come ha risposto il sindaco di Roma, Marino ha detto io non ho mai chiesto al Vaticano di essere invitato. Non ho mai detto che il Vaticano mi ha invitato. In realtà Marino, in un'intervista al Messaggero di qualche giorno fa, il Messaggero è il principale quotidiano della capitale, come sapete, ha detto un'altra cosa, cioè che ha detto ho parlato con Monsignor Paglia. E peraltro Monsignor Paglia, l'abbiamo interpellato Monsignor Paglia. Fammi sentire un attimo. Prova a chiamarlo un po'. Adesso proviamo un attimo a chiamarlo, Monsignor Paglia, perché sembra che Marino abbia parlato, ha detto Monsignor Paglia è un prelato famoso, tanto scagionato da poco da un po' di accuse che gli hanno fatto. Un po' di accuse. Monsignor Paglia è un uomo vicino al Papa e sembra che Marino è colui che ha parlato, è lui che avrebbe invitato il signor Marino. Pronto? Monsignor Paglia? Chi sono io? Buonasera, qui Radio 24, la disturbo? Mi dica. No, volevamo sapere una cosa, ma è lei che ha detto a Marino... No, Monsignore, siccome è uscita fuori in un'intervista al Messaggero che lei parlò con Marino e gli disse che il Vaticano era contento di se fosse andato negli Stati Uniti, volevamo sapere se... No, poi parleremo tra tre giorni. Come tra tre giorni, Monsignore? Tra tre giorni risorge, come tra tre giorni? No, tra tre giorni ne parliamo. No, voglio capire una cosa, ma lei ha mai parlato di Marino? Abbia pazienza. Ma che succede tra tre giorni? Tre giorni risorge dopo tre giorni, ma mentre Marino è lì che Va bene, Monsignore. Va bene, scusi. Stia bene, pace bene, pace bene. È bello che si scusa pure per... Devo dire che mi sta simpatico sto consiglio di Paglia. Ma sono educatissimi in Vaticano. Beh, insomma, non sono tutti così in Vaticano. No, non sono tutti così. Non sono tutti così in Vaticano. Comunque, ragazzi, resta il mistero. Chi ha invitato Marino ad andare a Filadelfia negli Stati Uniti? Bisogna fare delle indagini. Peraltro, credo a spese nostre. Credo. Beh no, se tu non vivi neanche a Roma, quindi a spese dei cittadini di Roma. Ma sì, comunque del contribuente italiano, in generale del contribuente italiano. Perché il Papa ha detto, beh, guarda, proprio io non l'ho invitato. Allora abbiamo già Salvini per i lunedì salviniani in diretta, però dalla Nigeria, in diretta dalla Nigeria. Aspetta, diretta dalla Nigeria, no, perché non ci hanno fatto andare in Nigeria, visto negato i signori nigeriani. Hanno tanti problemi già lì che hanno detto no. Tu non dici ne che vogliamo tanti altri. Problemi, non volevano problema Salvini. Ma di male, no, ragazzi, in Nigeria vanno. Dice fratello, stai a casa tua, che qui abbiamo tanti problemi, fratello, si avranno detto così probabilmente. Dici fratello Salvini, non sì, credo. Essendo di colore, avranno detto dai fratello, batti 5 ma rimani a Grattosoglio, a Catua, gli hanno detto secondo me. Questo non è uno di colore. Sicuro gli hanno detto uno di colore. Ragazzi, sì. Il numero uno oggi è, come al solito, il governatore della regione Campania, De Luca. Beh, amici miei. Pensavo volessi dedicare una parte della trasmissione all'annuncio della NASA che c'è. Sì, sicuro. Allora, c'è De Luca, acqua su Marte. De Luca dice salata. Dice che da Rai 3, ma l'aveva già detto qualche giorno fa, ti ricordi che l'abbiamo anche. Che Rai 3 è una fabbrica di depressione e di puttanate. Io lo adoro quest'uomo. Mi pare un po' esagerato. Ma sì, certo mi che sembra. Esagerato. Certo che è esagerato, però viva Dio. Sapete che io sono stato condannato in primo grado, lo dico perché tanti giornali, tante televisioni, in particolare i miei amici della terza rete Rai, che come ho detto è la più grande fabbrica di depressione al mondo. Rai 3, puttanate incredibili. Ragazzi, questo è, per me deve essere il governatore d'Italia, forse anche del mondo, insieme al Papa. No, al Papa no, meglio De Luca del Papa. Matteo Salvini, eccolo qui, eccolo. Eccoci ragazzi, Eccomi, avevo fatto anche le vaccinazioni per andare in Nigeria. A proposito, ho letto pure, hai fatto le vaccinazioni, la febbre gialla, di dove sei impazzito? Dovevi andare solo a Lagos, che ti frega, la capitale non succede niente, no? No, ma io faccio quello che viene prescritto, l'abbiamo fatto tutte le nostre spese, biglietti di viaggio, alberghi compresi, e mi spiace che una volta tanto, quando si riesce a tradurre in pratica il concetto di aiutiamoli a casa loro... Vabbè, ma che andavi a fare? Non è che andavi a portare i soldi là? No, ma oltre che Matteo Salvini c'erano una decina di imprenditori che fatturano alcune centinaia di milioni di euro che erano interessati a investire in quel paese. Quindi magari ci vanno uguale o no? C'erano, ma i visti li hanno negati. Pure a loro. Ma con quale motivo? Assessori regionali del Veneto, della Lombardia, della Liguria, avevamo in visita programmi alle missioni, programmi a grandi aziende. Non so, chiedetelo a loro, chiedetelo all'ambasciata. Il fatto sta che la Nigeria è il primo paese esportatore di immigrati in Italia, senza documenti ovviamente, però per un italiano che vuole andare a lavorare, a fare qualcosa di utile in Nigeria, evidentemente è complicato. Ma come mai? Cioè, perché ti, evidentemente ti troppi posso attacchi. Dare una mia spiegazione. Troppi attacchi con gli immigrati, dai. Troppi la mia spiegazione no, è che qualcuno desse fastidio che la Lega andasse in concreto a fare quello che dovrebbe fare il governo. Cioè, Renzi che Renzi ha fatto pressione sul governo nigeriano? Renzi è impegnato a New York a portare la pace nel mondo e a dire che bisogna dialogare con l'India. Ma non è che dalla Tanzania hanno detto qualcosa, no? Dai signori della Tanzania. Fatto sta che il governo della Tanzania. Ripeto, ma chi lo conosce? La Nigeria, peraltro, tra 40 anni sarà il terzo paese più popolato al mondo dopo India e Cina. Io sono convinto che i problemi dell'immigrazione si risolvono andando là, aiutando questa gente. Ma comunque questa roba certo qui, che se fanno i difficili sui visti, ragazzi, me ne faccio una ragione. Vai con un barcone, scusa. Con un barcone anche tu, vai lì con un barcone, meraviglioso. Sì, però devo dire che sali su un barcone, fai il migrante verso la Nigeria. La medaglia è che la Nigeria fa rispettare le leggi sull'immigrazione a chi vuole andare in Nigeria. L'Italia invece fa rispettare. C'è meglio la Nigeria dell'Italia alla fine. L'Italia... dal punto di vista del controllo dei confini, sicuramente sì. Vabbè, quello è anche un po' più difficile arrivare in Nigeria rispetto all'Italia. Comunque, vabbè. Insomma, poi però fatto sta, secondo me è grave, perché avremmo voluto portare un aiuto. Ma non si capisce perché comunque un leader politico di un partito così negano il visto. Ma tu dici, ma ragazzi, io sono andato in India, in Cina, negli Stati Uniti, in Parenzo, Australia, per te ovunque, che è successo? Adesso... Ma lì è chiaro quello che è successo. Dai. Cioè? Si sono consultati, hanno detto Salvini, come Salvini? No, non dice un po' brutte parole su Negri. Fratello, dice brutte parole su Negri, rimane ca tua. Cioè, voglio dire, perché devi venire qui da noi, che già abbiamo casini pazzeschi, militari al governo, rotture di cazzo in narrabili, gente che parte, arriva questo con la ruspa. In Nigeria hanno votato a maggio, lì votano, votano più in Nigeria che in Italia. Ma adesso quello non è un governo, non è un governo esattamente ispirato né a Benedetto Croce né tantomeno a Einaudi, credo, quello nigeriano. Secondo me è incivile che negare a giornalisti, rappresentanti istituzionali l'ingresso in un paese, punto. È stato ripagato con la stessa moneta, no? Salvini non vuole che la gente venga qui. Con la stessa moneta. Hai visto che significa essere respinti? Adesso hai provato sulla tua pelle cosa vuol dire essere respinti? Questo è dato. Io stanotte dormo, non è che stia insonne perché non mi chiamano in Nigeria e non mi entra in Nigeria. Piccolissima. Puoi andare su Marte se vuoi. C'è l'acqua salata lì. Io do solo il numero. Sono usciti i dati ufficiali su quante domande di asilo politico sono state accolte in Italia nei primi sei mesi del 2015. Ebbene, Parenzo sappiano gli ascoltatori che la maggioranza assoluta delle domande presentate è stata respinta. E i rifugiati politici sono stati il 6%. Ragazzi, 6%. Questa roba dei rifugiati politici è sempre stata. Io l'ho sempre detto. La regione Lombardia, sai cosa ha fatto? È sempre stata una fantasia. Quella norma vergognosa. Decine di migliaia di clandestini. Aspetta, fermo un attimo. Fermo che c'è il traffico, poi proviamo a fare una telefonatina ai signori nigeriani. Ai signori nigerien. Il traffico è il problema. Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Vi presenta La Zanzara. You're connected with the Embassy of Nigeria in Rome. The Embassy of Nigeria in Rome. Siete in linea con l'ambasciata di Nigeria a Roma. Questi fanno un cazzo, dai. Premere 2 per l'italiano. 2, premete 2. No, metti in nigeriano, fai parlare Salvini in nigeriano. Pronto? Pronto? Ma gli operatori funzionano o no qua? Pronto, sono boss. Le informazioni relative a passaporto. Non parlare con la Nigeria. Digitare l'interno 204 o sì. 207. Vabbè, richiamiamo, dai. Parlare con la Nigeria. Non si capisce niente, digitare che cosa? Digitare l'interno. Sto digitando tutto ma non si sente niente la Nigeria. Allora, siamo con Matteo Salvini, fra poco cercheremo di metterci in collegamento con l'ambasciata nigeriana in Italia per capire. Questi non fanno un cazzo, dai. L'ambasciata nigeriana alle 7 di sera, dai. Questi non fanno una mazza dalla mattina alla sera, sti nigeriani. Ma anche se chiami in Lombardia a quest'ora non risponde nessuno in regione Lombardia. Devo dire sul pezzo e sulla testa. Vabbè, allora io voglio capire una cosa, Berlusconi ti tratta come un ragazzino, dice che parli alla pancia, che eccetera eccetera, quello che abbiamo sentito nei giorni scorsi, che parli solo alla pancia, non ti tratta come un leader, ti tratta come... Ma innanzitutto noi siamo... Ti sei offeso mangiamo, o no? Ti sei offeso parlare... o no? No, no. Beh, ho letto da qualche parte che un po' te la sei presa, dice che è grave dire... Ho segnalato che siccome stando non solo alle elezioni ma ai sondaggi la Lega avrebbe circa 5 milioni di elettori in Italia, o ci sono 5 milioni di rimbambiti che parlano con la pancia, oppure riusciamo a parlare anche al cuore e alla testa. Cioè dici Berlusconi non si rende conto che non è che ci possono essere 5 milioni che... No, ma già fallo dire a Renzi che siamo delle bestie, che lui è umano. Cioè, vi ha dato delle bestie, praticamente come Renzi. No, come no. Come Renzi ne c'è nessuno. Però come quasi. Ma perché ti tratta così? No, ti tratta non come... Non riuscirai mai a farmi litigare. No, lo so che non per questioni calcistiche. Perché? Che sei tutte e due del Milan? Appunto. Insomma, non mi sembra che abbiamo messo giù uno squadrone da competizione. Adesso c'è il signor Mr. Dean. Mr. Dean. Quell'altro. Io voglio dire una cosa, però Matteo, è indubbio che non ti tratta come un leader possibile, ti tratta come uno così. Perché rosica? Secondo te perché ti perché tratta rosica? Così? Ma no, ma perché io capisco che il leader di un altro partito vorrebbe vedere il suo partito sempre più avanti. Purtroppo, per fortuna, la Lega per le sue battaglie sta crescendo, non parlando solo alla pancia. C'è un po' rosica, dici? Di legge Fornero, di studi di settore, parli alla testa e al portafoglio più che alla pancia. No, ma Berlusconi ha diritto di pensarla come vuole, quindi no, non commento. Il mio avversario, non dico nemico, ma il mio avversario è... Però è finito. Scusa, ho un'idea. Perché non vai in Nigeria come ha fatto Marino col Papa? Vai dai lì. Bucato, e dici, ma hanno invitato. Ma che figura di fango ha fatto? Ma dai, no, fai come Marino. Vai in Nigeria. Devo dire la verità, dai. Smentito dal Papa non c'è mai riuscito quasi nessuno, secondo me. Quasi nessuno. Vabbè, però io dico, è vero che hai detto che Berlusconi ha fatto il suo tempo? Leggo oggi sui giornali. È vero, dai, su. Ho semplicemente detto che io guardo avanti. Cioè, Berlusconi è il passato. No, ma perché mi vuoi? Ripeto, il mio problema non è Berlusconi, adesso mica quando ti vedi, quando non ti vedi. Se riusciremo a fare un accordo bene, se non faremo un accordo bene lo stesso, ma il mio problema è mandare a casa questo governo. Io bisogna vedere se Berlusconi lo vuole mandare a casa sul serio, perché quello è il problema. Ma spero che abbia capito che i patti del Nazareno, gli inciuci. Ma Berlusconi oggi che cos'è? Cioè, può essere sempre leader, come dice lui, mi guardo allo specchio e vedo me come leader o no? Dagli italiani, chiede agli ascoltatori. Vabbè, ma secondo te, però diciamo la verità, non potete ripresentare Berlusconi. Chiunque sfiderà Renzi. Ma non le vuole fare lui. Non le vuole fare. Ma le faremo. Non sono più i tempi delle decisioni a tavolino. Cioè, non decide più dall'alto lui ad Arcore. Ma neanche io. Comunque, le primarie per tutto. Le primarie per fare. Ma a livello nazionale, sicuramente. Poi e per fare il sindaco di Milano? A Robecchetto con Induno si può anche evitare. No, Robecchetto con Induno no, ma a Milano? A Milano. Sto nome esce fuori o no? Sto nome? Dai, è forza. Ma che è un parto? Un parto brucci il debbio. Quando ci sarà, te lo farò alla Zanzara in un lunedì Salviniano. Ma no, per la pazienza che hai di imitarmi. No. Ad oggi non c'è, quindi non te lo ma posso come fare. Ma come oggi non c'è? Com'è possibile che non c'è? Dai. Non c'è. A oggi, lunedì 28 settembre, è più facile che tu. Dall'altra parte, quindi non c'è. Ma scusami, è più facile che tu vada in Nigeria o che Del Debbio faccia il candidato sindaco di Milano? Ma a parte il fatto che io in Nigeria ci andrò perché ritengo di essere persona civile, educata, che ha qualcosa da dire. Allora, da ma fare, se quelli non vogliono, non vogliono, c'è poco da fare. Però vuol dire che è più facile quello. Quando voi troverete la linea libera e gli spiegherete che andavamo là con buona volontà, la vendetta nigeriana. Andrò in Marocco per intanto, dove sono, mi sembra un pochino più attenti e disponibili. In Marocco sono dei resort meravigliosi in Marocco. Ma bellissimo. Non andrò in un resort del Marocco. C'è una spana magnifica. Questo magari ma Berlusconi si deve dedicare più al Milan che all'Italia, secondo te? Ancora, ma non mi far litigare. Ma il mio che... problema è Renzi, è quel disastro di Renzi. Vabbè. Lascia... vabbè, ma quello... per quello non è Grillo, non è Berlusconi, non sono gli altri. Vabbè, ragazzi, Renzi che sta occupando il paese. Alla cazzo. Prossima, ciao, ciao. Qui non vabbè, occupa nessuno, qui siamo liberi, liberi di dire il cazzo che vogliamo. Ciao. Sei un terrorista radiofonico. È una verità. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Radio 24 e Il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. Lancio una proposta, facciamo una colletta noi ascoltatori e sovvenzioniamo noi il tempo della pubblicità e noi sentiamo più Zanzara. Siete due delinquenti, due grossi delinquenti. Non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. Federica da Roma, 800240024. Federica, sì. Vai. Sì, buonasera. Dimmi. Volevo raccontare quello che mi è successo ieri pomeriggio. Sì. Io abito a Roma e stavo andando al Giulio Cesare, una sala cinematografica che conosceranno in molti, e probabilmente ieri tutta Roma, mezza Roma, diciamo così, si era accalcata, no, in quella sala multisala. Ho fatto una fila piuttosto consistente, insomma all'incirca 40 minuti, e in questa fila c'erano persone, donne incinte, insomma persone anche anziane che hanno così con una certa sofferenza pur di andare al cinema hanno fatto come tutti la loro fila. E ad un certo punto, proprio nel momento in cui io stavo di fronte alla cassiera, sì, una persona si è messa di lato, ha, sì, tirato fuori una banconota lateralmente a me, diciamo, io se va, perché sono andato io a vedere quel film ieri sera, se è quello al quale vuole fare riferimento. Allora, sì, perché li avevo prenotati i biglietti. Ah, ecco, l'aveva prenotati, ma non su internet, non come tutte le altre persone, però. Cioè, lei che vuole dire che ha girato la fila, non ho capito, si è sentita presa, sì, per il culo. Sì, mi sono sentita presa per i fondelli come cittadina comune, come tanti altri. Ma guarda che anch'io sono cittadino comune. Però è cittadino comune, basta però con una questione preferenziale. Basta, no, ma io voglio arrivare al dunque. Un attimo, basta, voglio arrivare al dunque. I biglietti prima. Ma tra perché la cassiera molto... non me l'ha detto? Posso aggiungere? Allora, la cassiera ha detto, dico, mi scusi, volevo sapere una cosa, dico, ma per i giornalisti c'è per caso, sì, una corsia privilegiata? No. Oppure dico, ci sono dei privilegi? Ho fatto, ma quale giornalista, mi ha detto la cassiera? Infatti, io sono voltata, dico, mi è sembrato infatti, strano che non avesse riconosciuto il giornalista. Qual è il punto, Federica? Non ho capito bene qual è. Non è che ho detto sono giornalista. Ho prenotato il biglietto. Aspetta, fammi sentire quello che dice, prego, questo. Prego, dai, sì, Federica, sì, dimmi. Allora, che alcune persone hanno fatto la fila, moltissime persone comuni hanno fatto la fila ed altre persone, in virtù della loro notorietà, sì, adesso, secondo me. Ma no, ma con uno prenota. Se non mi ha manco riconosciuto, scusa. Ma ce l'ha detto lei? No, guarda. Ma l'ha appena detto lei adesso, io, si può dire qualunque cosa, signora mia, può dire qualunque cosa. Ma se lei mi ha appena, ma la cassiera no? Ma ho capito, ma qual è il punto? Non ho capito, scusi, qual è il punto, Federica. Capire. Cioè, secondo lei, secondo te, sì, Parenzo ha saltato la fila, questo è il punto. Allora, secondo cioè, me forte della sua visibilità, che peraltro non, non c'è, perché i biglietti che si comprano su internet, i biglietti che si comprano su internet non vanno pagati. Non vanno pagati, quindi che cosa queste banconote? Vabbè, che si adesso, siccome c'è il protagonista di questa vicenda, Parenzo, hai saltato la fila al cinema, questo è il punto. Dai, ma sì, lo certo, dica. Avevo detto adesso, certo. Avevo prenotato i biglietti e ho pagato e sono entrato, fine. Cioè, hai saltato la fila o no? Cioè, non ma ho certo, capito. Ma non li avevo già presi prima i biglietti, vabbè, li avevo già prenotati. No, no, quella no, manco no, mi ha riconosciuto, di che, non è che sono andato lì col tesserino, sono Parenzo, non l'ho mai fatto in vita mia, no? Ma scusi, lei ha appena ammesso. Sono stati tirati fuori dalla cassiera. Lei ha dato i soldi. Non perché non devo pagare il cinema, signora, come chiunque. Ovvio che pago il cinema. Non ho detto che sono giornalista. Ho semplicemente prenotato i biglietti, come si fa in qualsiasi cazzo di cinema. La prenotazione si fa online. La prenotazione si fa online. Non si danno i soldi. Ma l'ho fatta per te. Vabbè, Federico, risolveremo la questione. Scusi, signora. Mi ha appena detto, un film bellissimo, ma chi se ne frega del film, non essere no, cattivo, un film meraviglioso. No, vabbè, a lei non interessa. Ma non ce ne frega niente a nessuno, è un film meraviglioso che correrà agli Oscar. Del mio sangue. Vabbè, Federica, quello di Bellocchio, brava, com'era quello di Bellocchio? Gianni da Forlì, Federica, grazie. Gianni da Forlì, dai. No, buonasera, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Io vai, dimmi. Molto tempo. No, io volevo dire solo due parole sui migranti, visto che adesso va molto di moda. Allora, io il mio problema, almeno per me, io ripeto, ho una mia idea politica, non è il sistema per farne arrivare degli altri. Il problema è uccidere quelli che ci sono. Questo è il primo problema. Non ho capito, scusami Gianni, non ho capito bene. Penso di non aver sentito bene. Il problema non è come farne arrivare qua degli altri. Sì. Il problema è ammassare quelli che ci sono. Cioè, questa è la mia idea. Ammassare o ammazzare? No, ammassare o ammazzare? Ammassare, eliminare, come vogliamo chiamarli. No, ma lei con questa voce così, come dire, romagnola, così anche simpatica, eccetera, ha detto il problema non è respingere quelli che devono arrivare, fermarli o limitare. Eliminare quelli che ci sono. Ammazzare quelli che ci sono. Scusi, perché il suo intento, se non l'ho capito male, è ammazzare quelli che ci sono adesso in Italia. Sì, è dargli una sfoltita, come vogliamo chiamarlo, me la dica lei la parola, cioè eliminarli, perché a me danno fastidio. E poi le volevo dire. Ma lei è un comico, un barzellettiere? Sono fascista, ma tranquillo, non sono qui per litigare per nessuno. No, però scusi un attimo, adesso Parenzo, tu credi che sia vera questa telefonata o è tutta temo una finta? Temo di sì, mi fa paura la freddezza con la quale. Ma paura adesso, paura. Mi fa paura, no, vabbè, sì, la paura. Lei non deve avere paura di nessuno perché io sono un galantuomo e quindi dico. Beh, le ma mie sa, idee, anche alcuni nazisti erano dei galantuomini, infatti si chiama la banalità del male, cioè era gente normale, comune. Era gente che tornava a casa e dava da mangiare ai propri figli, Gianni, prima di mettere la gente sui vagoni piombati, Gianni, era così. Non ho capito bene quello che vuoi, cioè che no, vuoi... no, io voglio, ho detto, io ho fatto una mia considerazione, ma non è una considerazione, hai detto che vanno ammazzati quelli che ci sono già in Italia, gli immigrati che ci sono in Italia. Lei è uno psicopatico. Ascolta, io penso così, se tu la pensi in un altro ma modo, non è questo, non è questione di pensare, questo però, non sono due idee contrapposte in questo caso. Tu vuoi ammazzare quelli che ci sono in Italia perché dici io sono fascista, e vabbè, ho capito, ma a parte che non è che posso dirne un'altra e poi no, ma dì un'altra tranquillamente, no, siamo qui nel campo delle barzellette. Mi dispiace, vabbè, io chiamiamo un'altra barzelletta. L'altra cosa che mi dispiace è che io, fra l'altro, sono anche cattolico, non bigotto, ma sono anche cattolico. Cioè, ma i cattolici ammazzano la gente, non ho capito. No, se mi lasci finire, ti dico. Allora, l'altra considerazione che mi dispiace è che abbiamo un papa che sta facendo di questo argomento un proselitismo. Cioè adesso va di moda e quindi dovunque vada parla a favore di sta gente. Allora mi farebbe piacere o che si affitti delle navi e si riportasse in Argentina. Non penso che le autorità di quella paese siano d'accordo. Ma tu non sei vero, però Gianni, tu non sei vero, secondo me. Cioè, sei no, io sono finto, sì, hai ragione. Seconda cosa, lasciami e poi finisco. Sì. Ci fu un'altra persona negli anni Ottanta, tu sei troppo giovane, non so se ricordi, un certo Monsignor Romero che ruppe il cazzo a quelli che comandavano allora, non sono qui per dire ha ragione o torto, questo lo stabilirà la storia, e secondo me non ha fatto una brutta fine, non so se ti ricordi questa storia tu. Sì, allora... Basta, finito lì. Non vorrei che Stefano persona... da Napoli, ciao Stefano da Napoli, vai. Buonasera, sono Cruciani. Dimmi. Volevo dire innanzitutto che la sua trasmissione mi piace moltissimo, perché sì. Fa il pelo e il contropelo. Vabbè Stefano, andiamo al fondo, dai. Cioè sottopone la gente a una critica spietata. Sì. Ma poi voglio dire che giovedì sera ci sono rimasto un po' male, in sì. quanto mi sembrò che lei, parlando del Viagra e del Cialis, fece capire che aveva interessanti notizie in quel campo lì da comunicare agli ascoltatori. E lei è interessata. Se ne ricorda? Sì, come no. Oh, ma certo. A un certo punto poi si interruppe e non ne ha parlato più né giovedì né venerdì e né tampoco. Cioè, non ho capito, sapere. Stefano, tu perché? Sei interessato. Sì. Perché? Perché? Interessante. Perché? No, è interessante, molto interessante. Il signore in questione me lo spiegherà più tardi se riusciamo a metterci in collegamento. Il signor tassista, il metodo alternativo al Viagra e al Cialis. Perché lei è così interessato, Stefano? E io ho una certa, io ho quasi 90 anni. C'è quasi 90 anni, non sembra dalla voce però. No, se mi chiamano il ragazzino, cioè, però c'è 90 anni c'è io. E ti tira ancora o no? Non ho capito. Come? Ti tira ancora o no? E perciò sono interessato, perché lì parlò di qualcosa di nuovo. Ma non è meglio che si interessi alla canasta lei, magari, no? Perché la canasta? Ma se questo vuole trombare, vuole trombare. Scusa, ma se vuole trombare. Ma perché? Perché? Perché? Ma chi l'ha detto? Ah, chi l'ha già dato, dai, basta. Ma no, ma non è vero, ma se questo qua ancora vuole. Ma se vuole fare ancora sesso. 3-7. Ma perché Stefano vuoi fare sesso? C'è un tempo per tutto, dai. No, ma perché uno deve rinunciare? Se no, no, per carità, ma che magari sai, in quei casi lì uno è anche pericolosetto, no? Una certa età. No, io sto bene in salute. Non, no, non, ma dico, magari fa una canasta, gioca con gli amici, un caffè, un tè. Io le carte le odio. Non, ma odia le carte, vuole ancora trovare. Ma lascialo libero di fare quello che vuole. No, ma che a 90 anni ancora uno già abbia il tarlo fisso di quella roba là. Però per carità. No, ma non è un tarlo fisso, è un fatto scientifico. Mi è sembrato un fatto scientifico. Va bene, perché il signor Cruciani giustamente diceva che quei farmaci possono essere sostituiti da una cosa nuova. Ma io non, attenzione, non so io no, Stefano, scusa. Stai però. Illudendo io milioni no, di persone. No, io non è che voglio fare la Vanna Marchi di Radio 24, sì. Non è questo il punto. Il punto è un altro. Ho detto che un tassista, mentre andavo all'Expo la settimana scorsa, sì. mi ha detto che altro che Viagra, altro che Cialis, qui c'è un metodo tutto naturale, naturale, che con lui funziona. E mi ha accennato a mettere il culo, a mettere il sedere nell'acqua fredda per non so, la mattina mi ha accennato, però volevo dei dettagli su ma questo. Adesso lo sta dicendo, non l'ha detto Stefano, vabbè, le cose vanno anche scintillinate, allora bisogna mettere, almeno da quello che mi ha raccontato, poi ripeto, urgono dettagli a questo punto, immergere il sedere in acqua fredda, nell'acqua gelata, per una ventina di minuti la mattina, mettere lì, evidentemente questa cosa qui fa circolare il sangue, no? In realtà è strano però, perché i medici consigliano invece il cosa? Mettere nell'acqua calda. Beh, Stefano, sì, sicuro che mi sbaglio adesso, è stata una cosa accennata che mi ha fatto venire un po' l'acquolina in bocca dal punto di vista della curiosità. Abbassa sto cazzo di iPad che c'hai lì a Roma, che si sente il rumore, Parenzo. Sì, si sente il rumore dei messaggi che arrivano, eccetera. Allora, Stefano, per cui vedremo adesso mi informerò meglio, non ti preoccupare, resta lì collegato. Ma resta collegato. Tutto il giorno io dico che mio marito mi ha fatto sentire questa trasmissione. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta La Zanzara. Hey Joe, get up and go. Il problema non è come farne arrivare qua degli altri. Il problema è ammassare quelli che ci sono. Allora, tutto De Luca contro Rai 3, il governatore della Campania, che dovrebbe essere per me il governatore d'Italia, forse anche del mondo, contro Rai 3, contro la Gabbanelli, contro tutti. Partiamo, via! Voi vi sintonizzate su Rai 3 e avrete atti di camorrismo giornalistico, di aggressioni personali, di imbecillità, ma tutto non ingenuo, tutto parte delle lobby radical chic del nostro paese. Sapete che io sono stato condannato in primo grado, lo dico perché tanti giornali, tante televisioni, in particolare i miei amici della terza rete Rai, che come ho detto è la più grande fabbrica di depressione al mondo. Rai 3, puttanate incredibili. arriva, allora era la Gabbanelli, arriva il collaboratore della Gabbanelli, viene a Salerno e viene a farmi un'intervista sul Cresse. Arriva questo signore, mette la telecamera, prepara tutto, cominciamo a parlare e gli dico: oh, guardi, quando cominciamo l'intervista mi avverta, ovviamente. Quindi io continuo a parlare in maniera libera, sciolta, amichevole, ironica, irridente, come si fa quando parli senza vincoli. A un certo punto mi accorgo che la telecamera montata era accesa. Chiamo questo signore e gli dico: scusi, ma sta registrando? E certo. Dico: ma le avevo detto un minuto fa di avvertirmi quando cominciava la registrazione. Scusi, ma lei voleva il ciak? Ho detto: sai che c'è di nuovo? Esci fuori dalla stanza, subito, vai, via, fuori! La mia contestazione non è che parlate troppo di queste cose, ma parlate poco, perché se vuoi parlare alla vicenda giudiziaria devi dire A, B, C e D, perché io sono orgoglioso della mia vicenda giudiziaria. Noi adesso appaltiamo la Napoli-Bari. Vi voglio vedere andare avanti sul cantiere a Napoli-Bari. Quando cominciate a fare il primo scavo nell'area napoletana e trovate un coccio, qualcuno dice di epoca romana, magari è una tazzina degli anni 60 buttata lì in qualche discarica. Lo dico perché è capitato a me in un cantiere a Fratte, dovevamo allargare una strada e hanno trovato un coccio e quindi si è aperta una indagine archeologica sul coccio. Poi qualche anziano ha detto: ma quella è roba che abbiamo buttato negli anni 60, era la tazzina di caffè degli anni 60, cioè non era... Questa vicenda della Volkswagen che per 24 ore ci ha riempito anche di grande soddisfazione, diciamo la verità, non lo possiamo dire, ma poi ci siamo dovuti fermare perché ci siamo resi conto che molte aziende italiane lavoravano per componentistica auto della Volkswagen, quindi rischiamo incredibilmente di farci male pure noi con le loro furbate. Allora, Davide da Roma, 800 24 00 24, Davide, vai. Sì, Cruciani, buonasera. Dimmi. Allora, senta, io volevo semplicemente dire che quel deficiente che prima ha chiamato dicendo che doveva voleva trovare la soluzione per ammazzare tutti quanti gli immigrati. Sì. Ok, io da fascista mi sono sentito offeso, ecco, da quel coglione. Sì, ma che vuol dire? Non ho capito. Perché non è che uno può dire: io sono fascista, allora ammazziamo gli immigrati. Non esiste proprio, cioè è un accostamento che non va affatto. Sì, va bene, non è che invece dirsi fascista va bene invece, eh? Appunto. Cioè. Ma che vuol dire? È un'ideologia quella, può andare bene o non andare bene. Sì, ma scusa, ma tu come fai? Tu come fai oggi a dire sono fascista? Cioè, poi sembra anche giovane. Bisogna essere anche pazzi da un certo punto di vista. Ma che te ne fotte del fascismo? Pensa a vivere, a trombare, ad amare, a fare quello. Sì, ho capito, ma che vuol dire essere fascista? Essere fascista? Ma che vuol dire? Come fai a dire una cosa del genere? Ma non è che uno dice sono fascista. Ma l'hai detto tu prima, l'hai detto tu prima. Sto dicendo che non è che io mi condiziono. Ma quanti la vita anni hai? Scusa, quanti anni hai? 30 anni. A 30 anni buttati proprio. Ma che adesso tu esageri come al solito? Dai. 30 anni buttati. Se avessi detto sono comunista, se non avessi avuto questa reazione, sì. Invece è la stessa cosa. Dai, essere comunista fino a prova contraria in Italia non è un reato. Ma lascia perdere l'Italia. Guarda, se tu guardi sempre oltre, adesso ti fermi all'Italia. Adesso guardi quello che c'è qua. I comunisti italiani erano fuori legge. Criminale come il fascismo. Ma uno che in Italia oggi si definisce comunista, si definisce la storia di Berlinguer, che può dire mio nonno è carriola, sì. E allora vabbè, allora adesso guardi l'Italia quando ti conviene, allora assolviamo tutti. Chi ha detto assolviamo tutto? Non ho detto tutto. Questo qua che a 30 anni si proclama fascista, infatti ho detto che è un cretino. Ho detto che è un cretino. Se avessi detto comunista gli avrei detto la stessa cosa. Ma sì, ma va benissimo, ma non è solo, ma certo che no, ma non è soltanto, certo no, perché non è fuori dalle regole, dice. Sei fazioso, ma che c'entra? No, non mi pare che lo arrestano domani mattina, lo denunciano, no? No, potrebbero, in base a Mancino potrebbero denunciarlo, sì. Allora perché non vai a denunciare Davide? Non è che ho Davide. Tempo di denunciare tutti i cretini d'Italia, siccome c'ho altro da fare. Ti ha dato del cretino Davide. Ma sì, ma senza dubbio, insomma, non c'è dubbio. Uno che si proclama fascista per me è un cretino, ma che cosa devo dire? No, non è un cretino. Davide, pure per me è un cretino effettivamente. Allora Davide. Sì. Allora? Ho detto la mia, io dico. Vabbè, va benissimo, è un cretino anche tollerante, quindi va bene. Va bene, sì. Giovanni da Pavia, vai, Giovanni. Sì, pronto? Dimmi. Allora, sì, volevo rispondere a un quesito che avevi posto all'inizio della trasmissione, circa Marino, così. Niente, Marino è stato invitato dal sindaco di Filadelfia per discutere di affari tra le due città e parlare anche della visita del Papa. E i soldi li ha messi loro. E poi con la loro... Loro chi? Diciamo, loro chi? Dei filadelfiani, filadelfisti. Cioè, e anche il viaggio di Marino è stato pagato dall'America? Sì, perché è stato loro ospite. Ma vedremo, adesso vedremo. No, c'è un video adesso è uscito di Marino. Video di Marino in cui se la piglia con la stampa, in realtà. Se la piglia con la stampa, nel senso che sulle polemiche innescate dalla stampa, in realtà se la dovrebbe prendere col Papa, non con la stampa, perché è stato il Papa oggi. Questo sono d'accordo, cioè la cazzata l'ha fatta il Papa, non vedo perché c'è da parlare. No, il Papa, come dicevo prima, ha risposto a una domanda che i giornalisti gli hanno giustamente peraltro fatto e quindi lui ha risposto, questo è stato. Non è che ha parlato di Marino. Male, cioè nel senso, ma no, c'è stata una domanda, no? Perché i cronisti gli hanno fatto giustamente una domanda e il Papa ha risposto. Non è che lui nel corso del suo improvvisamente... Vado a vedere un concerto e il cantante dice ma te non t'ho invitato e quindi non va bene. Prega. Anche secondo me il Papa ha un po' l'ha fatta fuori dal basino. Non poteva non rispondere però a una domanda. Oggi la discussione però è questa, non è tanto il Papa poteva fare questa dichiarazione, non poteva farla, poteva anche dire io non so niente, chi l'ha invitato, chi non l'ha invitato, eccetera eccetera. Beh, ha detto la verità. Sollecitato, ha detto bugie, io non l'ho invitato e però ha aggiunto nemmeno gli organizzatori. A quanto gli risulta, sì, ma non è che può dire le bugie il Papa, scusa. Ma no, beh, perché non lo so, certo che può dire le bugie, si suppone. Sai quante cazzate hanno detto i Papi? Però si suppone. Però si suppone che non debba. Ma non è vero, ma i papi dicono un sacco di cazzate, dai, un sacco di papi hanno detto minchiate a tutti sulla pedofilia, su qualsiasi cosa, dai, ma sì, chiunque governi cose importanti dice stronzate, cioè dice cose non vere, la menzogna fa parte dell'arte di governo. Non ho capito, Giovanni, tu difendi Marino? Difendo Marino, ma non c'è il caso, cioè, capito? Sì, il caso Papa, c'è perché quando il problema è del Papa, tu dici, quando il Papa dice, secondo me sì, cioè, quando il Papa dice sia chiaro io non l'ho invitato e non mi risulta nemmeno gli organizzatori, pone un problema importante, cioè, sì, sostanzialmente dice che Marino è andato in America da invocato da boss, cioè tipo da zarro di quartiere, cos'è, sei il Papa, scusami, sei muto, cioè pace, sì, va bene. Daniele Catania, vai. Buonasera. Sì, togli il viva voce, togli il viva voce, dai, forza Daniele. Non ce l'hai il viva voce. Lo so, ma hai la radio accesa, c'è un rimbombo. No, sono dentro un bar, quindi c'è rimbombo. Ok? Vabbè, Daniele, dimmi. Dico dai subito quello che voglio dire, ok? D'accordo, okay. Mi rivolgo a quel bigotto di Parenzo. Sì, bigotto, va bene. Allora, sì. Perché bigotto? Sì, bigotto, come perché bigotto? Voglio dire, nel 1950 le case chiuse sono state chiuse. Adesso diciamo, che c'entrano le case chiuse con questo? Sono a favore delle case chiuse. No, non sei a favore delle come case no chiuse. Ma Saprodi che sono a favore, no? È a favore, è a favore. Sono a favore delle case chiuse. Sì, vabbè, ma comunque in ogni caso la multa per i clienti. E questo non va certo, bene. Questa è un'altra cosa, certo. No, non va bene perché andare comunque a puttane combatte anche la depressione, tu lo sai? Perché adesso c'è molta gente che non può avere rapporti sessuali con l'altro sesso. Infatti uno può andare in posti regolari, giusto, laddove ci sono, giusto, senza sfruttare le ragazze di strada, l'ho detto mille non volte. Non è giusto che tu chiami miserabili le persone che vanno. Ma tu sembri particolarmente interessato tu, altro Daniele, che come miserabili mai? No, non sono particolarmente interessato, io sono un avvocato, a me non interessa. Io sono per la felicità delle persone che possono avere. Non a scapito degli altri tutti, però. La felicità delle persone, scusami, non a scapito di persone sfruttate però, perché altrimenti la felicità. Ma di che cosa? Cioè, scusi, voglio dire, tanto se una ragazza ucraina è per strada sulla salaria col magnaccia è sfruttata, quindi la sua gioia, la sua felicità di lei puttaniere e anche mascalzone e miserabile, senti, che per il suo divertimento, che glielo dice a tua sorella, il tuo è un ecco, tu generico, visto che lei fa l'avvocato dovrebbe sapere che il tu è un tu generico che si usa quando si parla, quindi se lei si sente identificato nel tu evidentemente qualcosa da nascondere c'ha. Daniele, no, che stavi dicendo? Io non ho niente da nascondere. E io allora, sono un avvocato, una persona il per tuo bene. È un po' generico. Però il tuo essere bigotto, cioè no, il bigotto fino al fino all'otto, l'essere un miserabile, bigotto. Non è lei nel, è nel merito, non visto solo, che non ci va. Bigotto, ma anche un leccaculo di merda. Bene. Ma a proposito, allora, visto che è avvocato, dovrebbe sapere che questa potrebbe sì, essere una querela. Leccaculo in che senso? Scusami, spiega. Visto che lei è avvocato, dovrebbe sapere. Del PD, voglio dire, insomma. Ma quello che c'entra è un'altra cosa adesso. Adesso lei è passato. Sei passato? No, sì, sì, sì. No, no, no, ho aggiunto una cosa all'altra. Sicuramente, ci mancherebbe. Però voglio dire, io sto dicendo una cosa. Siamo qua. Ognuno ha il sacrosanto diritto di scopare. Sì, questo a patto, ma ci mancherebbe altro, a patto questo non va. No. Ci mancherebbe altro, mai detto nulla di diverso, a patto che questo non vada a ledere la libertà di un'altra persona che è in costrizione, in stato di costrizione. Non è che uno va là e chiede la carta d'identità. Appunto, siccome il 90% di quelle ragazze sono costrette. Una cosa, guarda che io non ho nessun problema. Io ho avuto una vita normale. Questo anche da dimostrare, però. Te lo posso dimostrare tranquillamente, guarda. No, ma non mi interessa. In che senso la vita normale, scusami, Daniele? Come? In che senso la vita normale? Niente, ho una vita normale nel senso che comunque ho avuto fidanzate, cose, mi sono lasciato, quello, quell'altro, però sono stato anche in Brasile, Thailandia, mi sono divertito. E in Brasile c'era quello che comunque qui non c'è. In che senso? La giovialità, la possibilità di rapportarsi con con delle donne veramente carine, cioè e anche soprattutto cioè, mettersi, rapportarsi, magari pagare la prima sera e poi dopo ci passi 20 giorni, questa è la cosa carina. Vabbè, ma nessuno dice niente. Per me, con me sfondi una porta aperta. È Parenzo che dice che se tu vai per strada e trovi una, commetti un reato. Che vuoi fare? Sei un miserabile. Sì. Se uno va per strada, no. Se tu chiami, la differenza che fa Parenzo è incredibile. Cioè, se tu vai per strada sulla Salaria, no, anche lì c'è da capire com'è il sistema. E tu incroci una per strada sulla Salaria e la rimorchi, la metti dentro la macchina, te la porti a casa in albergo oppure in macchina e te la fai e paghi, sei un miserabile. Se invece tu chiami per telefono. Chiami, no, lascia perdere la casa, no, anche lì c'è lo sfruttamento, ovviamente. Chiami una per telefono, invece questo qua non si può fare. Anche lì c'è lo sfruttamento. E allora che cosa dico che allora si che può fare? Devi fare. Dico che la soluzione migliore. Allora finiscila. Dico che la soluzione migliore. Per te dovrebbero le puttane non dovrebbero esistere. Ma no, ma voglio dire, no, il problema, Giuseppe. Guardi, il problema è un altro. Se ci fossero le case che ci sarebbe più regolarità e controlli. L'hai capito? Qual è? Non potranno non esistere. Mai? Non ho capito. Hai capito o non l'hai capito? No, non l'ho capito, spiegamelo meglio. No, dico Giuseppe, il fenomeno della prostituzione potrà estinguersi? Secondo me no. No, certo che no. No, cioè sono d'accordo, infatti. Sempre. Però puniamo il coso, che ci frega? Puniamo il cliente. Puniamo il miserabile cliente che si avvicina con la macchina. Che si avvicina con la macchina, bravo, e sfrutta il corpo di donne, bravissimo, che sono sotto ricatto. Solo questo dico io. Poi certo. Dopo, quando si apriranno le case chiuse, cosa alla quale sono favorevole, è tutto un altro discorso perché ci saranno controlli. Miserabili, tutti miserabili. Sì. Tutti miserabili, ognuno può fare quello che gli pare. Fermali. Brucida la zanzara. Allora, io volevo chiamare uno dei verdiniani, non so, sono incuriosito dei verdiniani, Parenzo, non so perché, sono appassionato di questo nuovo genere politico che nasce, di questa nuova creatura politica, che sono i verdiniani, cioè quelli che passano da Berlusconi a Verdini vengono chiamati traditori, maledetti, eccetera, eccetera. C'è uno di questi, che è un amico nostro, che conosciamo, si chiama Francesco Amoruso, che è un senatore pugliese, gli hanno detto di tutti i colori, hanno scritto sul giornale che la moglie lo tradisce, insomma, no, che lo tradisce no, che la moglie che si sta separando dalla moglie, dunque vuole trovare un posto sicuro con Renzi, e Gasparri gliene ha detti di tutti i colori in Parlamento. Lo voglio beccare, so che è in Puglia in questo momento. Rispondi al telefono, Francesco. Hey. Francesco, come stai? Tutto bene, benissimo. Beh, da quello che leggo. Dove si trova, senatore? Dov'è, senatore? Ciao. Ciao. Io sono nella mia città, Bisceglie. Allora, ho letto nei giorni scorsi sui giornali che per problemi familiari hai lasciato Berlusconi. Ma che succede? Ma queste sono grandi fesserie che purtroppo non so perché devono entrare nella discussione politica. Dai giornali si evince, dicono, l'accennato Gasparri, l'ha scritto esplicitamente il giornale, che tu per problemi familiari, in particolare una presunta separazione da tua moglie, sei passato con Verdini. Ma questo che è? Metodo boffo, macchina del fango? Che è? No, questa è macchina del fango, è metodo boffo, è una grande fesseria. Cioè, uno può avere problemi o meno in famiglia, non penso che questi influiscano quantomeno sulla politica. Io ho lasciato Berlusconi, non Berlusconi come persona, ho lasciato Forza Italia e ho lasciato purtroppo tanti amici in Forza Italia perché, come ho detto anche a Berlusconi, non volevo morire di consunzione. In questo momento Forza Italia sta morendo per consunzione. Senti, ma Berlusconi è un partito che non ha futuro, non vedo che cosa c'è. Cioè la poltrona non c'entra, scusami un attimo, la poltrona non c'entra. Assolutamente, guarda, io ho 6 legislature, penso che... E che ne so, sai, fa sempre gola rimanere in Parlamento. Può andare per così dire in pensione. Però scusami Francesco, ma non sei incazzato perché scrivono queste cose di tua moglie, cioè della tua famiglia? Sono più che incazzato, mi sono vergognato di questo, specialmente perché è avvenuto in un'aula di Parlamento. No, ma anche sui giornali. Da parte di chi, tra l'altro, ricopre una carica istituzionale importante come quella di vicepresidente, quindi dovrebbe tutelare i parlamentari e non offendere. Cioè si dovrebbe vergognare, Gasparri? Sui giornali... Lo quereli? Questo sì. Stiamo valutando perché c'è stata anche una trasmissione televisiva dove lui ha detto più o meno le stesse cose, addirittura facendo anche dei segni visivi con le mani per far capire che ci fosse stata qualche transazione commerciale, come usa lui il termine. Addirittura. E questa è una cosa che mi indigna, mi offende. E il giornale invece, il giornale che ha scritto quelle cose di tua moglie? Il giornale non lo so da chi ha preso questa notizia, se ci sono gli estremi dovrà rispondere a chi di dovere, perché io penso che in ogni caso la vita privata di ognuno debba rimanere... Cioè i rapporti con tua moglie sono cazzi tuoi, i rapporti con tua moglie sono... Sono estremamente fatti privati che non possono certamente entrare, non entrano in quelle che sono le valutazioni politiche, anche perché c'ho dei figli, altri possono leggere, possono fare battute, è una cosa vergognosa. Che offende soltanto. E perché non quereli i Sallusti? E stiamo valutando. Però io voglio capire una cosa: lasci Berlusconi, ma secondo te Berlusconi c'ha ancora voglia di fare politica? Dimmelo sinceramente. No. Assolutamente no. C'ha più voglia. Siamo andati da Berlusconi, ma l'impressione che ho avuto scendendo quelle scale. Che non gliene frega più niente. Una persona proprio che sta un po' lontano oggi da quella che è la politica. Non gliene frega più nulla, diciamo la verità. Tengono lontano. E che gliene frega? Che gli frega delle robe sue? Ecco perché dico: il problema è di Forza Italia che oggi non ha un progetto, non ha un'idea. Vabbè, pure Verdini non è che sia l'Eden. Ma infatti il nostro gruppo non ha un leader, il nostro gruppo è oggi organizzato per perseguire un progetto politico. Ma non si può essere verdiniani, dai, ma come si fa a essere verdiniani, Francesco? Assolutamente, infatti io non sono verdiniano. Ma come no, vai con Verdini, il tuo leader è Renzi, diciamo la verità. Io ti dico questo, in questo momento, sullo scenario politico, se c'è un leader è solo Renzi. È solo Renzi, eh? Lo consideri il nuovo Berlusconi? Da un punto di vista di capacità mediatica, sì. Sì, ma non solo, ma per quello che fa, per quello che propone, dai, su. Certo, ma perché io penso che siano cose di centrodestra quando si propone un sistema bipolare, quando si propone un... Cioè è di centrodestra lui alla fine, è di centrodestra. Lui è di centro. Va bene, grazie. Francesco Amoruso, dalla Puglia, diffamato dal giornale, trattato come un divorziando. Vabbè, però non te separi, diciamo la verità, Francesco, diciamola urbi e torbi. Oggi non è all'ordine del giorno questa cosa. Beh, adesso sta cosa qua ci fa venire qualche dubbio, scusa, abbi pazienza. No. Vabbè, la nostra è una famiglia tranquilla. Tranquilla, vabbè, sai, non è che sai. Ciao, presto, ciao. Ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta. La Zanzara. Però voglio dire, io sto dicendo una cosa, che ognuno ha il sacrosanto diritto di scopare. Angelo da Brescia, vai Angelo! Ciao Cruciani! Dimmi! Io ho un modello senza calice e tutte quelle altre menate lì. L'ho quale? Sperimentato, non ma per che adesso. Cosa? Scusa Angelo, scusa, per che cosa? Per via di far avvisare Camillo il coccodrillo. Cioè no, spiegati meglio, parla meglio, capisco che è complicato da Brescia a quest'ora, a una certa età. Col ghiaccio. Sì. Ci deve essere no, aspetta, che non capiamo bene. Col ghiaccio cosa fai? Dove lo metti? Lo tolga dalla bocca il ghiaccio intanto. Di Ferrara che diceva pippe. Ferrara che dice pippe. Sì. Pippe. Vabbè, Angelo, io, il ghiaccio dove lo metti? Lo metti in bocca alla fanciulla e poi lei va avanti a fare il suo lavoro. Cioè, tu però cosa succede? Un bel momento, col freddo, cosa lì chiama il cervello e gli dice guarda che mi sto congelando, manda tutto il sangue che hai a disposizione. Sì. Allora arriva il sangue perché c'è sta roba. Quando è quasi pronto, ci vuole un goccino di whisky. Sì. Lo mette in bocca alla ragazza e c'è un contrasto tra troppo freddo e il whisky. Beh, qui siamo veramente... dire che fa il fumo dopo. Qui siamo veramente al top. Angelo, lei tu... di cosa si occupa in genere? Quanti anni hai, Angelo? 68 anni, benissimo, perfetto. Tu un malato, mi sta perché un malato è solo no, uno che chiama per raccontare sta roba, poi può farlo in privato quanto vuole. Perché gli altri che chiamano raccontano le favole che Campocetto Rosso. Ma se le piace così, ma se le piace raccontarlo in diretta, va bene. Angelo, fai benissimo. Allora, tu ci stai raccontando la tecnica che usi ormai a 68 anni, anche se a 68 anni uno è abbastanza giovane, diciamo. Ma guardi la televisione. Dai. Ma perché deve guardare la televisione? Ci sta descrivendo i modi in cui si fa drizzare il suo organo genitale. Siamo no, tutti ma il questo, no? Il problema è questo. Sì. Qual è il ghiaccio? Sì. Si rimpicciolisce, bollenta o non letta perché il freddo è quello freddo, che no? Dico io, dunque, sì, esatto. Ecco, però dopo, sì, un bel momento, ci vuole un po' di tempo, non è che ci vuole 2 minuti. Sì. Camillino e Coccodrillino li telefona al cervello e dice guarda che mi sto morendo, mandami del sangue. Chi è, scusa, com'è che l'hai chiamato? Camillino, Coccodrillino, non ho capito. Sì, vabbè, uso quel termine lì per non dire altro, dai. Allora, manda dei segnali al cervello dicendo beh, guarda, c'è bisogno che tu metti il sangue, no? Sì, deve arrivare, c'è un punto debole, devi mandare giù il sangue perché mi sto gelando. Ma scusa, quando ma tu perché metti il ghiaccio nella bocca della tua partner? Ma allora non hai mai provato, allora è una cosa da provare. È uno spasso, però dopo, a certo momento, decidi quando tu o lei prepari lì un bel goccio di whisky o cogna, ho capito, lo metti in bocca e c'è il contrasto tra quello lì e il freddo. E va a finire che fa il fumo dopo. Ho capito, fa il fumo. Angelo, fa il fumo perché viene fuori duro come il ferro. Viene fuori duro come Angelo il ferro. Le mirabolanti esperienze di Angelo da Brescia. Scusa Angelo, tu chi frequenti? Sei un miserabile, come dice Parenzo? No, o hai la moglie, no, l'amante, partner fissa? Mi è capitato qualche volta, anni che furono. Sì, certo. Ero la moglie. No, adesso non c'ho più la moglie. Però c'è una fanciulla che ha un'arte magica a parlare nel flauto. Sì, ma non ho capito, ma adesso speriamo chi frequenti? Speriamo che non ascolti la radio questa sua amichetta, diciamo, che magari non è felice. Comunque, hai una fidanzata, una parte, una ragazza? Sì, una fanciulla che si dedica a me. Quanti anni ha? 32. No, beh, allora la paghi, scusa, amico mio. No, è qui cade l'asino. Scusa, hai 68 anni o hai, insomma, sei uno ricco, insomma, oppure 32 anni mi pare difficile. Il carattere è molto, io sono in pensione. Scusa, perché una ragazza di 32 anni dovrebbe stare con te, Angelo? Dimmi la verità, perché? Probabilmente sulle misure, una volta ti ho telefonato, ti ho detto che avevo quelle misure lì, ma hai dato del matto. Amico mio, dai, su, dai. Vabbè, niente, se vuoi scendere così, io... Comunque ti avevo telefonato. Usi questa tecnica. Usi questa tecnica qui. Ghiaccio tecnica whisky. Ghiaccio whisky. L'infiliale. Ghiaccio whisky. C'è il combinato della doppietta. Ghiaccio whisky. Bene. Renato da Terni. Vai Renato. Ciao, buonasera. Vai, dimmi. Io volevo riaprire un attimo quel discorso che è stato brutalmente messo a tacere. Che però mi ha fatto fare un sacco di sghignazzate. Che era quello di Parenzo che salta la fila al cinema, passa davanti a tutti e paga il biglietto. Sì. E poi si aggrappa sugli specchi. Sì. Ma io avevo prenotato, cosa che non è vero, perché scusi. Lei sta a Terni, no? Lei sta a Terni. E allora la signora che ha telefonato. No, allora, se non mi fai parlare. No, prego, finisci il discorso. Il caso del cinema diventa discorso, metto giù tu parli. Dai, dimmi, No, prego, anzi. No, dicevo. Questo è tipico, cioè io me lo vedo. è proprio della sua personalità. Sì. No, chiacchiera di sinistra alla Matriciana, poi appena può, sì, approfitta della sua diciamo così popolarità, sì, e appena va, passa avanti alla fila. C'è una falla nel suo discorso, no? Perché la stessa signora, sei un cretino, c'è una falsità nella sua ricostruzione, perché la stessa signora che ha telefonato poc'anzi ha detto che non l'hanno riconosciuto, ha detto due punti aperte virgolette, non l'hanno manco riconosciuto. Allora c'è una falla, diciamo, nel suo racconto, però va benissimo. Allora aspetti, fermi tutti, c'è un'altra testimonianza per la cronaca. Scrive un tizio: appena chiamato il Giulio Cesare al cinema, è impossibile prenotare i biglietti e pagare alla cassa, si possono acquistare solo online. Furbetto il nostro Parenzo. Buona serata da un'ascoltatrice che si chiama Federica, non so com'è, la stessa in realtà. Vabbè, allora brevissimamente, poi vi lascio lo spazio. Sì, non ce lo pigliamo da soli. Questa non è una cialtronata, no? Tipica, proprio tipica. Ma di se lui dice però che non ha, se lui dice che questa è la sua forza, lui deve continuare a essere così, un cialtroncello. Perché per questo non è simpatico, e io credo simpatico. Io capisco che ha Trani o Terni, scusi, buono, bravo, ma non è né buono né bravo. Se la ma scusi, ma Renato, però accenda, però provi a accendere anche il cervello. Vabbè, dai, Mario da Roma, abbiamo capito. Se la signora stessa ha detto che non mi hanno riconosciuto, per fortuna. Provi a accendere il cervello. E va, anzi, vada al cinema, vada anche lei al cinema a vedersi un bel film la domenica, così si rilassa un po'. Devi continuare a essere così. Mario da Roma, Mario da Roma, vai. Mario da Roma, vai. Buonasera Giuseppe, buonasera. Dimmi, Davide. dimmi. Guarda, in merito all'atteggiamento del all'affermazione del Papa in merito al primo cittadino di Roma, sì, che non ho nemmeno il piacere di menzionarlo. Vabbè, adesso non esageriamo, non vuoi nemmeno pronunciare il nome Marino. No, assolutamente no. Cioè, ti dà fastidio solo dire Marino. Sì, direi proprio di sì. Io dico soltanto una cosa, uso una metafora. Sì. Come si dice a Roma, io secondo me credo che il primo cittadino ha tentato di prendere la vacca per le zinne, ma ha preso il toro per le palle, cioè nel senso sì, no, adesso facci capire bene, facci capire bene la metafora, cioè nel senso questa volta gli ha detto male, sì, per il semplice caso che la parte, diciamo, la controparte praticamente rispetto alla a qualche telefonata precedente di prima, non è una persona qualunque che ha detto l'affermazione del cioè di quel genere. No, ma è il Papa. Ma quantomeno è il Papa. Per no, cui, ma infatti il problema è quello. Dove, cioè, non riesce, dove non riesce questa sgangherata opposizione che sta a Roma, chi lo sa, ci riuscisse il Papa. Cioè tu speri che alla fine il Papa riesca a detronizzare Marino. Esatto. Nemmeno Renzi, come diceva Parenzo prima, ci è riuscito, magari ci riesce il Papa, non credo. Chi lo sa. Non credo. In realtà, ripeto, è inutile che Marino continua a dire io non ho mai detto di essere stato invitato dal Vaticano. Il 22 settembre al Messaggero dice: quando a giugno mi è stato riferito che avrebbero avuto piacere della mia presenza in tre appuntamenti del Santo Padre a Filadelfia, cioè dunque quando a giugno mi è stato riferito che avrebbero avuto piacere, aspetta, che avrebbero avuto piacere della mia presenza in tre appuntamenti del Santo Padre a Filadelfia, cioè la Chiesa mi avrebbero avuto piacere, chi? Quelli della Chiesa, no? Però scusa, c'è un punto che effettivamente darebbe ragione a Marino. In quella famosa foto in cui lui si avvicina alla macchina e lo saluta, cioè fosse stato un cittadino qualunque, cosa che lui è, non aspetta, avrebbero fatto arrivare così vicino al Papa, no? E invece è andato ed era presente a quegli incontri. No, ma che c'entra? Mica il Papa lo mandava a quel paese, non c'entra niente. Però non ti avvicini così al Papa con perché? La fascia. Beh, non credo, allora ci sono delle falle nel sistema di sicurezza del Papa, cioè. No, ma che c'entra, scusa, che c'entra questo? No, ci arrivi, puoi arrivarci anche tu. Il fatto che lui abbia partecipato ai tre incontri ufficiali, che lui sia stato invitato poi ufficialmente, ecco, quello non c'è dubbio. Ma che c'è? Non è che Barina è imbucato. Siccome lui ha detto, quindi vuol dire che il suo nome finisce in una lista, ma qualcuno quello, ce lo mette, è chiaro. Vuol dire che qualcuno in Vaticano ha comunicato il suo nome, o in Vaticano, oppure lui ha fatto tutto da solo. Però il punto è quello, controllato quelli della Filadelfia. Ma che c'entra Filadelfia? Lui è chiaro che va lì in via ufficiale, ecco, è chiaro che si avvicina. Secondo, è evidente allora che qualcuno in Vaticano lo sapeva. Ma no, ma quello lo sapeva, d'accordo, ma siccome no, lui... invece il Papa dice il problema non è quello che è successo dopo. Quello che è successo dopo è tutto normale. Lui fa la visita ufficiale lì, incontra col Papa, eccetera. Quello è la normalità. Ma chi ha proposto a Marino di andare lì. Si è autoproposto. Siccome lui ha sempre detto, almeno in questa intervista al Messaggero, che è stato sostanzialmente il Vaticano a invitarlo, a sollecitarlo ad andare a Filadelfia, sì, sì. Il Vaticano, il Papa ha detto: no, signori miei, riascoltiamo il Papa un attimo. No, signori miei, sia chiaro, non sono stato io a invitare Marino in America e soprattutto nemmeno gli organizzatori. Cioè, si è sostanzialmente autoinvitato, siccome sapeva che sarebbe stata una grande vetrina, Renzi, il Papa, eccetera, eccetera. Ha cominciato a chiamare a Filadelfia e si è invitato a Filadelfia. Quelli naturalmente non è che chiama il sindaco di Roma e dicono no, lei non può venire. Cioè si è invitato, è andato lì e ha fatto in modo di andare a Filadelfia. Però non l'ha invitato nessuno, né gli organizzatori, almeno quello sostiene il Papa, eh. Io non ho invitato il sindaco Marino. Chiaro? Io non ho fatto e ho chiesto agli organizzatori, neppure loro lo hanno invitato. Lui è venuto, lui si professa cattolico, è venuto spontaneamente. Era questo, primo, ma è chiaro, eh. No, ragazzi, mi sembra di una chiarezza. Però vedi, quando veramente lui dice è venuto spontaneamente. È venuto spontaneamente. Che sia venuto come un pellegrino, ma no, qualunque. Ma che c'entra? Questo è chiaro che non è che va lì non invitato, si presenta, pronto, sono Marino. Cioè, spontaneamente. Invece, ma così. No, ma è chiaro che lui fa in modo di andare. Cioè, l'iniziativa di andare a Filadelfia non viene è né dal Vaticano sua. Né da Filadelfia. Dice il Papa, e dobbiamo credere a quello che dice il Papa, in ci teoria, no? Ma dice il Papa. È tutta opera di Marino, cioè Marino è un grande cattolico, dice, no? È uno, si professa cattolico, c'è il Papa lì e va a Filadelfia. Dunque gli organizzatori, che poi sono quelli della città di Filadelfia, dice manco loro l'hanno invitato, ha fatto tutto da solo, si è imbucato lì per questioni di visibilità, perché diciamo la verità, gli affari veri, non è che Marino va lì a risolvere i problemi di Roma, cioè è andato a Filadelfia per non so quanti giorni a farsi i cazzi suoi. È un programma, guardi, radiofonico, com'è che si chiama? La Zanzara, oh, da chiudere subito, guardi, da chiudere. La Zanzara. Allora, c'è stata una o due giorni di Berlusconi, ragazzi, prima dalla Meloni e poi a un convegno vicino Brescia dei circoli di Forza Italia. Abbiamo visto un Berlusconi dalla Meloni piuttosto dimesso, non particolarmente in forma, non voleva, non aveva voglia di andare. A un certo punto la Russa ha detto, è stato quasi lo ha minacciato Giorgia Meloni, lo ha minacciato di andare, lo ha minacciato, perché all'ultimo momento, come fa sempre Berlusconi, l'ha fatto anche col povero Sallusti, ha chiamato dicendo no, non c'ho voglia, non vengo, cioè, solo che la Meloni, cioè, ha detto amico mio, qui ti sputtano, dico qualsiasi cosa, per cui lo ha, così ha detto la Russa, lo ha minacciato e lui è stato costretto ad andare. Dunque dalla Meloni così, insomma, ha detto qualcosa, sì, per carità, ha detto per esempio per quelli che vanno via Deo Gratias, per quelli che lasciano, che mi lasciano, come quello che abbiamo sentito prima, Francesco Amoruso. Per quelli che se ne vanno, evviva Deo Gratias, Deo Gratias, tutti i mestieranti della politica che non fanno la politica per passione, per servizio allo Stato, finalmente sono scesi da Forza Italia, che hanno considerato come un taxi. Però, ragazzi, il top è alla scuola di formazione della Gelmini. La scuola di formazione della Gelmini, e già ho detto tutto con questo. La eh? Scuola di formazione politica. Sì, già ho detto tutto, eh? Sì, la scuola sì. Di formazione della Gelmini. Avete capito? Già ho detto tutto. Tutto finito. Però, senti che cosa. Senti lo spettacolo di Berlusconi. In Russia mi chiamano Silvio Rubacuori. E che ha portato l'Ucraina in una miserrima situazione economica. Erano tutti felici di poter abbracciare Putin, considerato come un salvatore. E io lì sono molto amato e vengo chiamato con un nome che in fondo mi piace molto, Silvio Rubacuori. Un altro è quello sui due sfigati in Libia, Bondi e Cicchitto, che è chiaramente una mezza barzelletta, no? Senti. Un anno non potei andare, questo è vero. Lui insistette, mi disse, ma mandami una delegazione. E io pensai, bah, mando chi mando? Mando due spiegati, mando due. E Chelsea, Cicchitto e Bondi. Ma loro, sfortunati, caddero nelle mani di quell'unica tribù ribelle a Gheddafi. E dove si trovarono? Si trovarono legati a un palo al centro della tribù. E intorno a loro un corteo di guerrieri con cori incomprensibili da cui usciva una sola parola comprensibile. E la parola era bunga bunga, bunga bunga, bunga bunga. Traffico veicolare. La Zanzara. Ragazzi, Flavia Vento si candida a sindaco di Roma. Non è vero? Sì, sì, sì. Mi candido a sindaco di Roma, anzi de Roma, l'annuncio via Twitter. Beh, devo dire la verità, caro, io non so se Flavia Vento può fare peggio di Marino. Io questo non lo credo, sai che non lo credo. Non credo che riuscirebbe a capire dove sono le infiltrazioni mafiose a Roma. No, questo forse. Però anche Marino non è che l'abbia capito benissimo, Ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta. Appunto. Allora, qualche frattaglia presa qua e là. Il presidente delle Poste, la signora Luisa Todini, per nomina renziana, dice che si incazza perché la stazione Termini ha aspettato un'ora per un taxi. 40 minuti, sì, sì, per un'ora. Sì. Ci ha messo tre ore da Milano a Roma e poi da Roma a casa sua. Pazzesco. Un'ora, signora Todini. No, io dico una cosa, a parte che... È vero, spesso la domenica sera spesso capita, anche a me è capitato. Io non voglio difendere i tassisti, questo è un problema di organizzazione che spetta soprattutto al comune, eccetera, eccetera. Però la signora Todini, come dire, può affittare una macchina, può farsi venire a prendere. Beh, però è bello che prenda il taxi, può il servizio pagare, pubblico. Può pagare, c'è il car sharing, c'è anche l'autobus, per esempio, un meraviglioso autobus. Alle 9 di sera. Amico mio, non è che perché sei ricca e non puoi prendere non l'autobus. Non può essere accusata di questo, prende il taxi, non c'ha la macchina blu delle Poste. Ci sono, anzi, autobus. Fa la fila come tutti, fa la fila. La fila lì, è una vergogna indecente in civile, sempre, in ogni caso, come io dico. Vabbè, però se tu vedi la fila, non fai un'ora di fila, hai i quattrini, prendi una macchina privata. Beh, evidentemente fai il car sharing, prendi l'autobus e ti fai venire a prendere. Ci sono vari metodi. Se fai la fila, poi non puoi rompere le scatole. Se vedi una fila lunga, è chiaro che devi aspettare. No, ma lei un'ora. Si poneva un problema giusto, cioè come mai alla domenica a Roma tu devi fare un'ora di fila per pigliare un taxi? Perché i turni saranno legittima. Messi male. Vedo che a Expo ci sono ancora delle file pazzesche. Sabato pare che ci siano state 295-300.000 persone. Ma la gente, secondo me, è veramente fuori di testa. Cioè, vedo delle file interminabili. Allora mi domando due cose: o c'è del masochismo in giro, cosa possibile anche. Alle persone piace fare la fila. Cioè, magari rimorchiano, non c'hanno. La seconda cosa, non hanno un cazzo da fare. Cioè, perché c'è gente Expo che per vedere Expo, per non è che 4 lavorare. Ore fai la fila, vedi una marea sterminata di persone. La prima cosa, ma guarda che anche a Euro Disney ci sono le file. Sì, ma Euro Disney è un'altra cosa. No, anzi no, devo dire la verità. È io come Euro Disney. Sono andato all'Uber. È come Euro Disney, giusto? Hai ridotto Expo ad Euro Disney, è vero, hai ragione. No, vai è al vero, Dorsay, è così. Al Museo d'Orsay di Parigi, no, una volta ho fatto. Come? È indecente. Sì, hai ragione, ma è indecente. Io ho fatto due ore di fila al Museo d'Orsay. Sì. Se tu vai ai Musei Vaticani, ad esempio, ai Musei Vaticani ti fai anche tre ore di ragazzi, fila. Non certo. È la stessa cosa. Dai. Ma è la stessa cosa, è uguale. Per è un posto bello, ambito, da vedere e la gente fa la fila, fine. Va bene. Ma non mi pare così scandaloso. C'è un sacco di gente. Anzi, prima io direi Radio Padania, la solita rubrica, il peggio di Radio Padania. Fervi di Roma fuori. Senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera. Guarda avanti. Vai con la Nigeria, Parenzo. Vedi Roma fuori. Senza dubbi t'hanno né respinto pure dalla Nigeria. Rimani in Padania. Con la ruspetta. Guarda oltre i monti. Non permettere al tiranno di accecarti. Barin sul Luxuria. Le tue braccia possenti. Diciamo che Vladimir Luxuria su Radio 24 ha invitato tutti a prenderlo nel culo, che ci si allarga la mente, ha invitato tutti noi di Radio Padania e tutti voi ascoltatori di Radio Padania, nel senso che se non lo prendete nel culo non va bene, non sapete cosa vi perdete, signori, e chiaramente così si gira la frittata completamente. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti. I vecchi non capiscono niente di ste cose, Solo i giovani provano queste emozioni. Prendetelo nel culo che vi si allarga la mente, ha detto Luxuria Radio 24, signori, E lì si possono dire queste cose, mentre se le dite su Radio Padania vi blobbano subito. Padania bella e libera, guardava. E c'è anche Pellegrin, l'altro conduttore. Una donna di 30 anni è stata stuprata da un senegalese e un attivista per i diritti dei migranti. Un migrante l'ha stuprata, indoccia un profugo, ma l'ha stuprata 30 giorni fa. Perché è stata zitta per 30 giorni dopo un orribile stupro? Tutti costoro che sono della sfera del centro sociale le hanno detto: no, stai zitta, altrimenti nuociamo alla causa del migrante. Essere stuprati da un migrante in Italia non è più un orribile reato. Questo è quello che pensano coloro che votano per questo governo. Di Roma fuori. Adesso questo passaggio non mi è chiaro. Questo è pazzo. Cioè, quelli che votano questo governo sostengono che stuprare non è una cosa grave. Ma adesso io posso. Tanto bisogna verificare l'attendibilità di quell'episodio. Vabbè, maestro, lasciamo perdere. Questo è peggio di Radio Padania, no? Non siamo qui nella discussione. Ah, ecco, no. Oh, da Radio Padania c'è anche un Salvini guerra fondaio sulla guerra. Renzi senza palle, andiamo con le armi in Siria a distruggere l'ISIS. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti. Vedevo che Renzi, che è veramente un senza palle incredibile, ha detto: no, non bisogna intervenire militarmente in Siria. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti. Padania bella e libera, guardava. Va bene, Fabrizio, provincia di Latina, anzi prima Antonella da Milano, vai. Buonasera. Pronto? Vai, dimmi. Buonasera, volevo dire due cose. La prima è quel cretino di avvocato che ha detto che ci sono molti uomini soli che non hanno una donna e quindi giustifica la prostituzione. E direi che a questo si può fare delle belle seghe. Invece, seconda cosa... No, scusi, Antonella. Ma lei devo finire la seconda, poi mi dice tutto quello che vuole, per favore. Ma innanzitutto... La seconda cosa... So che conduce lei, mi scusi. La seconda cosa, che non sono miserabili solo quelli che si fermano per strada, ma anche quelli che vanno nelle case chiuse. Perché sono degli sfigati che devono pagare per poter avere una donna. Questi sì, certo. Io non gli darei la multa, li prenderei direttamente dalla strada e li costringerei a forze di botte a dare via il culo. Così magari gli si allarga pure la mente. Io ho finito. Sì, ma lei ha finito. Ma che vuol dire lei ha finito? Ma che è una predica questa qua? Antonella, allora, prima cosa, per te sono miserabili pure quelli che vanno nelle case chiuse, cioè nei bordelli, in Svizzera, in Germania, in Austria. Sì, sono tutti degli stronzi. E perché, scusami? Perché la donna va comunque rispettata. Ma queste c'entra? La donna va rispettata. Non c'entra niente. Quelli che vanno prostitute sono degli sfigati. Ma non è vero, non è così. Sono tutti sfigati. E anche, scusi, se li giustifica, un po' sfigato pure lei. Ma io non giustifico nessuno, sono per la libertà. Un uomo vero, trova, se gli piacciono le donne, trova una bella donna o trova la donna che gli più si aggrada e ci va insieme. Non guarda, la paga, Antonella. Antonella, io conosco un sacco di... Non c'è nessuna donna, Felice. Conosco un sacco di gente, ho capito bene. E questa è la scusa degli uomini, questa è la scusa conosco degli un sacco uomini. Di, conosco un sacco... Conosco un sacco di donne che gli piace, vabbè, saranno... No, non hai capito ancora. Ma che è? Oh, ma stai calma. Allora, conosco un sacco di uomini sposati che hanno possibilità di andare con un sacco di donne che nonostante questo ogni tanto vanno a prostitute. Qual è il problema? E sono sfigati, perché non ma hanno... Ma perché sono sfigati? Giusto, con il quale condividere tutto quello che voglio. Ma non è che, ma tu sei monogama, hai questo problema di essere monogama, no, e va bene. Io non ho nessun problema. Sei monogama, hai questa malattia, hai la malattia della monogamia, hai la malattia della monogamia. Non hai nessuna malattia. Io dico che se lei vuole andare con 10 donne ci può andare. Vedi, lei no, se ne pega solo una. è sfigato. Parenzo, il fatto che Parenzo è d'accordo con Antonello dovrebbe far accendere una luce a Parenzo. No, in realtà la signora non dice una cosa folle, secondo me. Lasciala parlare. Queste donne... Pronto? Sì, vai, tanto parli solo te. Anche io mi avreste chiuso, ma avete chiuso? No, chi ha chiuso? Okay. Figuriamoci. Io ho detto il concetto è molto semplice, non ha bisogno neanche di tante spiegazioni. E quale sarebbe il concetto? Se una donna e la paga, si sa benissimo che questa donna non è contenta di andare con quest'uomo. Questo è tutto da vedere. Io prenderei questi uomini, non gli darei la multa per strada, li prenderei subito, diretto lì, io personalmente, le riempierei di botte lo farei mettere nel culo, visto che gli piacciono tanto le donne. Tu devi avere... a pagamento, sì, cosa vuol dire subire qualcosa che devi avere piace. Devi avere avuto qualche trauma, però, da questo punto. Ma nessun trauma, guardi. Sì, secondo me sì, secondo me... Sono mie figlie, non mi si rende sentendo... Hai scoperto... Secondo me hai scoperto che tuo marito... Mio marito niente, perché guardi, sono felicemente sposata. Appunto. Lei non me lo trova. Ma non lo trova in questo campo il problema. Sono degli sfigati. Dov'è tuo marito? Dov'è tuo marito? Mi aspetta da mezz'ora, perché io mi sono fermata con la macchina. Ma io non ho capito bene. Ma devi stare tranquilla un attimo, però. Adesso sei. Mi sembri. È troppo brutto. Mi sembri esagitata. Ma io non sono agitata. Sei agitatissima. Insomma, avevo paura non mi faceste parlare. Noi facciamo parlare tutti. Questa è la base. Anche quelli che Parenzo vorrebbe che non parlassero. Però, Antonella. Sì, ma stai tranquilla. Niente, non ce n'è da fare. Miserabili. Sfigati, stronzi, miserabili e sfigati, benissimo. Io conosco un sacco di gente, ripeto, che ogni tanto, non sempre, va a puttane. Se ci vai continuamente ogni giorno, a parte che per me ci puoi andare tranquillamente ogni giorno, non c'è problema. Conosco ogni tanto qualcuno che ci va, che ne so, una volta al mese, due volte al mese, e non sono né miserabili, né stronzi, né sfruttatori, eccetera. Semplicemente ogni tanto a queste persone va di pagare per fare del sesso, un dout des. E quando non c'è sfruttamento, e uno è difficile che sappia prima se c'è sfruttamento o no. Non vedo qual è il problema, Antonella? Non vedo, è ineliminabile questa cosa qua, è inutile, cioè non è che uno dice voglio eliminare la prostituzione, non la puoi eliminare, capito o no? Voi non avete rispetto per la dignità. Oh, che palle con sta dignità! Niente, sai che cosa sono? Proprio niente, non sai più parlarti di... Ferma un attimo, che devo dare la linea a bordo, ferma! E che cos'è? È che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Invesco per i tuoi risparmi. Investi con noi. Vi presento La Zanzara. Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso. Ah, c'è ancora Antonella oppure ti sta aspettando tuo marito? Ci sono, è là che aspetta. Ma non fare aspettare tuo marito, amica mia. No, non lo faccio aspettare, adesso vado ma a casa. Ma sei sicura che è a casa tuo marito? Perché secondo me fosse con un amante va benissimo. No, ma il discorso che hai fatto prima, un discorso razionale. Perché ha detto che ogni tanto uno non sta con la moglie, ma supponiamo che un uomo desideri dei rapporti orali che la moglie non intende fare. Si trova un amante, si fa fare un sacco di pompini e non la paga. Il problema è il pagamento. Vedi. È il fatto di... È lucida la signora. Ma sì, per carità, ma lei pensa che pagare delle una cose, donna sia sbagliato? Dice delle cose molto per me. Dice, io preferirei che mio marito facesse la corte a altre, oppure insomma, sì, però non sì. le pagasse. Mi pare un discorso di una dignità assoluta di questa signora. Anzi, mi sembra una donna intelligente, di grande dignità, piuttosto che dire vado a pagare, mi farebbe meno schifo. Sì. E ha ragione. Sì. Credo che sia un pensiero condiviso da tantissime donne, da persone di buon senso. Sì, persone di buon senso. Sì, ma sì, penso di sì, certo. Vabbè, sono dei miserabili quelli che pagano, ma non c'è un male. Miserabili quelli che pagano. Ma non c'è ombra di dubbio su questo. Sono dei miserabili quelli che pagano. Siamo al bigottismo proprio. Ma non è bigottismo. Ma non è esattamente bigottismo. Non è bigotto. Io prenderei quelli per strada, non gli darei la multa, li costringerei a pagamento e a forza di botte a darvi al culo. Questo l'abbiamo capito. Oltre ai pompini abbiamo capito anche... lucidità estrema, mi pare. Le sembra bigotta? Esatto. No, infatti... Sì, molto bigotta, molto bigotta. No, ma per nulla bigotta. Ma no, ma avete una... Non giustifica, giustificare. Ma non è giustificare, avete un'idea, avete un'idea. Ma non è questione di giustificare. Vabbè, stai zitta un attimo adesso, stai zitta un attimo. Stai zitta un secondo, non è questione di giustificare o non giustificare. Amica mia, la prostituzione, cioè il pagamento, a parte che adesso esistono anche le donne che pagano gli uomini, ma lasciamo perdere che è un fenomeno residuale. È un fenomeno residuale. E il pagamento per fare sesso è una cosa che esiste da quando esiste il mondo. Ma no, ma non è chi se ne frega. Ma che c'entra l'intelligenza mi fa. Ma sì, ma allora non intelligente come lei mi tira fuori i discorsi che non per giustificare. Ma non giustificare non esiste, che cosa? Ci sono tanti motivi perché uno va a prostituta, non è solo quello che dici tu. Si faccia una sega, ma chi se ne frega? Adesso tu decidi quello che deve fare qualcuno, eccolo. Ma lei può andare dove vuole, ma gli tocca pagare, capito? Beh, ci sono tante cose che si pagano. Ci sono tante cose che si pagano. Tante cose che si pagano nella vita. Non so che cosa, dovevo stare a casa a fare la calzetta, no? Ma chi? A non pagare stipendi di ragazzi. Ma lasciamo perdere, cioè, no. Sono tutti sfigati, basta. Ma dove tutti sfigati? Ma non esiste solo il sesso. Lei guardi, che solitamente sono d'accordo con lei. Su questa cosa ho chiamato solo perché proprio si vede che se lei riflette da sola. Si rende conto che non fa parte neanche di quello che pensa lei. Ma come no? Ma figuriamoci. La ragazza che è costretta a venire con lei, poi lei, bello contento, la paga. Ma no, ma infatti io non pago perché non mi piace. Io non pago perché non mi piace. L'ho fatto due volte in vita mia, l'ho raccontato un sacco di volte per provare quello che succede in questi club in Austria e Svizzera. Ma non ho nessun tipo. Sì, ma non condanno quelli che lo fanno. Ma ancora di più. Vabbè, tu li condanni, che vuoi fare? Mettili in galera, faglielo mettere in quel posto da qualcuno, che ne so. Quella, io farei quella. Ma come lo fai? Costruzione sessuale. Ma concretamente, come lo fai? Non lo so concretamente, cioè non è e che ne so, è difficile pure. Cioè tu volesti una pena corporale. Una pena uguale, corporale. A pagamento. Cioè, siccome loro lo mettono nel sedere alle prostitute, tu vorresti che mettere nel culo a pagamento. Pensa te, che grande apertura mentale. No, l'apertura è da un'altra parte. Lei ce l'ha un'apertura dall'altra parte. No, io non ce l'ho. Guardi. Lei... Allora, senta, io ho saluto perché adesso vado a casa. Ho visto che fino a un certo punto, anche se con idee diverse, non riuscivamo a ragionare. A questo punto io la saluto e vado avanti con la sua trasmissione. Ma stiamo ragionando tranquillamente. Cioè, il problema è che lei. Ma ragionare non è solamente con i filosofi italiani come fai tu. Non c'è una via di mezzo, non ragiono con i filosofi. Questa qua è. Ma fino a tre secondi fa hai detto che era ragionevole la signora, ma adesso non è ragionare questo qua. Scherzavo. Allora di che parli? Parole... Prima, vabbè, Paolo da Varese, dai, Paolo da Varese. Ciao Antonella, ciao. Paolo Varese, vai. Paolo, buonasera, dimmi. Niente, mi sono sentito appunto sul vivo dalla sua affermazione a quella, sì, l'ascoltatore che diceva o sei ricco Ho detto io, quando c'è una grandissima. Io volevo dire questo, e sì, ovviamente ci sono, conosco anche coppie che hanno differenze d'età di 25-30 anni. Quando ci sono differenze di età, diciamo di 35, cioè, oltre i 30 anni, mettiamola così, ma giusto per dare un esempio, eccetera. E soprattutto è chiaro che scatta qualcos'altro, no? Che non può scattare. Poi è evidente che c'è anche l'amore, per carità, sì, però spesso scatta qualcos'altro. C'è una persona conosciuta, una persona che ha molti soldi, eccetera. Eccetera, eccetera. È così, uomo o donna che sia, anche al contrario. Poi questo non esclude che invece lei quanti anni ha, scusa? Io ne ho 64, una moglie di 32. Sì. E ti sei sentito un po' offeso. Comincia a rompere le palle anche questa. Da 15 anni insieme, cioè da quando ne aveva 20? Abbastanza. No, scusa, lei ne aveva 17. Come? Lei quanti ne aveva, scusi? 18. No, tu... Diciamo che è un'età che non si può dire. Comunque da 15 anni, diciamo. Cioè, tu stai insieme a questa persona quando lei ne aveva? Era minorenne, ti ho detto. Quando 17, era minorenne? 16, 18. Vabbè, ci siamo sposati 2 anni fa. E tu ne avevi? 4 anni. E che ne so quanti ne avevo 17 anni fa. Adesso ne ho 64. Vabbè, ne avevi quasi 50, 15, 48. Esatto, sì. Cioè, a 48 anni ti sei messo con una di 17? Sì. questa è la terza moglie. Ma non sono diciamo, mai stata diciamo la terza moglie, 35 bravo. Anni. Ti piacciono le ragazzine, diciamo la verità. Non questa. Sono bello, non sono ricco. Era quello che volevo dire. Ti piacciono le ragazzine, dai. Ma se, cioè, forse per quello che si riesce anche magari a fare allegramente l'amore senza... senza tanti problemi, senza no, ma io per... ma dunque ti sei, adesso, ti sei un po' offeso, ti sei un po' no, offeso ma quando no, scherzavo, io, ovviamente, era solo per no, ma non è che no, non è che diciamo la relazione tra una persona che ha un'età di quando la differenza è di 30 anni, nell'80% dei casi subentrano altre questioni che non sono quelle dell'amore, a mio parere, dall'esperienza che ho. No, è vero, hai ragione. Dall'esperienza che ho, poi possono esistere anche altri casi. Certo. Giuri, certo, Milano, trovo, sì, dimmi sì. Paolo. No, dimmi. Trovo abbastanza talebano e ipocrita l'atteggiamento sulla prostituzione. Vuol dire, se uno lo dice, la vuol dare a pagamento, l'altro vuol pagare. Sì, diciamo, Parenzo dice che anche situazioni drammatiche, okay, ma non è che uno può fare l'indagine prima di andare con una. No, però si sa che in alcuni contesti è molto più facile certo. che sia lo sfruttamento, tutto qui, ma sì, è una cosa sì, banale, sì. non ci sarebbe neanche da discuterne, uno secondo fa, me. Prima fa un corso da fare report. No, uno non ci dovrebbe andare, non deve fare report. Se no, in quelle strutture dove non deve andare a puttane, per Parenzo non bisogna andare a puttane. Dovrebbe andare in quelle strutture dove ci sono tipo Austria, in Germania, non so, se uno non può andare in Austria e Svizzera che fanno, va a puttane in Italia? Si fa non va a puttane in Italia, si fa una sega. Televisione, fa quel che deve fare. Ah, però non può andare a puttane secondo te? Se no va punito. Secondo me va punito, perché è complice di un tutti reato, quelli, certo. Secondo Parenzo, tutti quelli sì. che vanno a puttane in Italia vanno puniti. Benissimo, no, ma siamo arrivati a una conclusione almeno concreta. Una buona parte di questi Massimo sicuramente da Novara, sì. dai. Massimo da Novara. Sicuramente bene, sì, ma perché sono complici di un io reato. Io sono per la chiarezza delle idee, questa che è l'idea lo sfruttamento, chiara. Massimo Novara. Eccomi, buonasera. Allora, io volevo semplicemente dire, intanto avevo uno scoop, avevo qua vicino una signorina che voleva parlarvi, che è del mestiere. Però purtroppo aveva da fare... E, come si dice, il tempo è denaro, soprattutto cioè stai loro. Andando a puttane? Tutte... no io già sono già a posto, già fatto, cioè già fatto era, era qui sì, sono il miserabile Parenzo, fammi parlare un secondo no aspetta cosa? Massimo nel pomeriggio volta. Cioè nel tardo pomeriggio serata di oggi è andato a puttane magari ascoltando la zanzara. Io tornavo con lei e sentivamo Radio 24 tornando indietro. Sì. E mi ha detto: ma chi sono questi qua? E c'era quella signora che parlava prima. Sì, sì. Ok. E mi dice: questa ragazza mi dice che se tutti ragionassero come lei, lei sarebbe obbligata ad andare a fare l'operaio. E allora mi ha fatto questo ragionamento e mi ha fatto riflettere. Mi dice certo, sarebbe obbligato andare all'operaio e guadagnare magari 1200, magari questa qua ne guadagna 5.000. Se è una libera allora scelta dice, va benissimo, allora... certo. E che dice, fa Massimo? L'indagine penale Massimo fa prima no, di andare con questa? No, ma siccome c'è la ragionevole certezza ma che il 90%... Che diglielo che adesso glielo dico, ma siccome si sa che il 90% delle ragazze in genere sono sottoposte a racket, sì. è evidente che... Non è vero, che... Davide. Allora ti dico una si cosa. Si pulisca la coscienza dicendo che non è vero. Lei è arrivata in Italia a pagare quello che doveva pagare, poi aveva da fare una scelta. Poteva fare, ha pagato il suo magnaccia, poi si è liberata, vabbè, certo, come tante altre storie. Ha pagato per venire in Italia, ha pagato i mafiosi italiani, ok? No, infatti, okay? Bravo. No, okay, okay, a me è chiaro il meccanismo. Se no non gli davano il passaporto. A me è okay? chiaro il meccanismo, è nigeriana, immagino. Detto questo... Non è nigeriana, detto, immagino. Detto questo, non detto risponde. Questo, però è così, ma siccome lo sanno tutti, il miserabile siete voi poi, ma fate ascolta, passare me per bigotto, è incredibile. Ma qualunque persona di buon senso le sa ste robe, tant'è che lei non risponde. L'ha detto lui, l'ha detto. Anche tu sei una prostituta, sì. anche tu dai via il tuo tempo, dai via la tua vita per sì, lavorare, scelgo per uno stipendio, siamo tutti prostituti, siamo tutti sfruttati, tutti. Vabbè Massimo, adesso al di là di queste considerazioni filosofiche, siamo tutti sfruttati o siamo tutti prostitute, sei andato con, conosci questa qua che è una nigeriana, un'africana, non ce ne frega niente in questo momento. Che beh, cosa? No, è determinante perché un vabbè, tipo non di racket è tutte è le nigeriane quello. Sono tutte sfruttate. No, è un tipo di racket che è conosciuto benissimo, perché funziona vabbè, così. Allora lui, anche se sapesse ragazzi, che leggetevi due cose, non è che ci vuole un genio. Ma non insisti su questa cosa di leggere due cose, ma che siamo leggete, non è che siamo ignoranti e tu sei il genio. Beh, un po' su questa roba sì, mi pare, se non sapete la storia. No, più che altro. Guarda che mi sa che Parenzo parla perché le cose le sa, perché è il primo che si ferma dalle signorine. No, quello. Questo lo posso escludere. Beh, questo non credo. Vabbè, Massimo, comunque, allora non ho capito. Questo qua, questa qua ha detto che lei sarebbe costretta a fare l'impiegata, no? Se non facesse la prostituta. Per 1200, per 1000 euro deve fare 8. Vabbè, io non ho capito una cosa, Massimo. Non ho capito una cosa, ma questa qua è sfruttata da qualcuno? Ha un magnaccio dietro? Non o no? È sfruttata da nessuno. Lo fa piuttosto, dice, io piuttosto di farmi 8 ore in fabbrica a 800 euro. Faccio 4 ore di lavoro e guadagno 4.000 euro al mese. Va bene, ma questo in questo caso, se si è liberata, è la sua scelta, è come lei, ce ne sono tante. Va quindi bene, ma non fare di un erbo un fascio, dai a tutti del miserabile e dai no, a tutti no. Delle sfruttate. Ma quante non volte vai? Quante volte vai con prostitute? Ogni volta che mi tira. E che ne so, quando? Oggi poi la. Oggi avevo tempo da perdere, avevo voglia di compagnia e ho trovato una bella signorina che mi ha fatto compagnia. Quanto tempo? Perché c'è anche un rapporto umano, non sono un maniaco sessuale. Ma adesso cioè, un rapporto umano, non esageri. Ma in senso. Quattro parole, cioè. Ah sì, vabbè, fai finta che ci sia un rapporto umano. Adesso questo francamente vabbè, non esageriamo. Finta, va bene. Però fai c'è finta. Educazione, cioè educazione, pulizie, perché comunque ci tengo anche a queste cose. Però a dire alla signora che diceva siamo tutti dei maniaci, siamo tutti. No, che dovrebbero mettertelo dietro, dovrebbero mettertelo nel culo perché come punizione, una punizione corporale. Non mi permetto, di dire, di ripetere quello che ha detto la ragazza. Però mi ha detto, mi piacerebbe fare due chiacchiere, è stata qua con me. Però vabbè, ma passamela la prossima volta, passamela, no? C'hai il numero di telefono? No, passa. Doveva lavorare, sono stato un po' al telefono. Ma ce l'hai il numero o no? Ce l'hai il numero o no? No, di lei no, non ce l'ho il numero. Vabbè, la prossima volta che vai, chiamaci, dai, forza. Va bene, ciao, dai. Ciao, Massimo, fermo, vai. Massimo da fermo. Massimo? Massimo da fermo, Iuri da Milano, vai. Iuri sì, da Milano. Ciao. Dimmi, veloce, vai. Ciao, volevo parlare Cruciani a riguardo di tutta questa prostituzione che si parla, ma non si parla mai dei club privé. Adesso non possiamo aprire il fenomeno dei club privé, però per dire cosa? È che volendo uno, non è che bisogna che vada per strada o che vada in auto. C'è prostituzione anche lì, non c'è dubbio. Perché le prime non c'è prostituzione anche a Milano lì. C'è sesso di gruppo, scambismo. Vabbè, quello che c'entra con la prostituzione. È un'altra cosa, però, scusi. Cioè, quello è un altro discorso. Lei mi pare confuso. Lei mi pare un po' confuso sulla materia. Può andare tranquillamente in un club privé. Sì, d'accordo, però diverte, ho capito, però non paghi lì. Cioè, sì, lì paghi per entrare, ma in teoria poi per fare sesso non paghi. Poi anche sì. Potrei anche non pagare con una donna, faccio la finta coppia, entro dentro, ok. Vabbè, adesso stiamo andando nel dettaglio di alcune cose che non c'entrano nulla. Però la prostituzione esiste sostanzialmente anche in questi club privé. In qualche club ci sono delle prostitute. Però insomma. Ma infatti è tutta una grande ipocrisia. Bisognerebbe legalizzare tutto, punto e basta. Basta con ognuno con la sua fattura, con i suoi controlli sanitari, eccetera, eccetera. Questo è giustissimo. A domani 18:30, ciao. Però voglio dire, io sto dicendo una cosa, che ognuno ha il sacrosanto diritto di scopare. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Radio 24. La passione si sente.